3 maggio 1915. L'ho finita con la psicoanalisi. Dopo di averla praticata assiduamente per 6 mesi interi, sto peggio di prima. Non ho ancora congedato il dottore, ma la mia risoluzione è irrevocabile. Ieri intanto gli mandai a dire che ero impedito e per qualche giorno lascio che m'aspetti. Se fossi ben sicuro di saper ridere di lui senza adirarmi, sarei anche capace di rivederlo, ma ho paura che finirei col mettergli le mani addosso. In questa città, dopo lo scoppio della guerra, ci si annoia più di prima. E per rimpiazzare la psicoanalisi, io mi rimetto ai miei cari fogli. Da un anno non avevo scritto una parola. In questo, come in tutto il resto, obbediente alle prescrizioni del dottore, il quale asseriva che durante la cura dovevo raccogliermi soltanto accanto a lui, perché un raccoglimento da lui non sorvegliato avrebbe rafforzato i freni che impedivano la mia sincerità, il mio abbandono. Ma ora mi trovo squilibrato e malato più che mai. E scrivendo, credo che mi netterò più facilmente del male che la cura m'ha fatto. Almeno sono sicuro che questo è il vero sistema per ridare importanza ad un passato che più non vuole e far andare via più rapido il presente uggioso.